Cristo comunque sia, i batteri dà, però non stacca, almeno con la base magnetica. Probabile che su macchine dove hanno la massa, proprio a massa, funzioni. Bisognerebbe provare in macchina di qualcuno, però, di Giuseppe, se è disponibile un giorno. A Bisese. Sono entrato, mi stavo dicendo Marco. La porta. E anche non è spostato da 20 secondi. Eia, va bene, vedremo su da farsi. Poi ho scoperto che lo ZG aveva lo stesso prezzo, non lo sapevo, credevo costasse di più. Mi hai visto, vai, la cagata. Come la penso io, il ZG fa benissimo per sé, esce bene. Lui aveva visto anche in macchina, non è che ho fatto la prova in macchina insieme a te. Adesso quando vedo Giuseppe domani mattina, mi se tu non c'è niente da fare, scendi, dice il metodo di Viatorino, scendi dove siamo andati l'altra volta, scendi lì, arriva Giuseppe e provi quello che c'è in macchina lui in macchina tua, e lui si fa tutto sul petto. E già lo controlliamo, da. Ascolta, cosa ti volevo dire? Ah, che sai perché con 4 watt dava 70 watt quello? Perché quello può essere pilotato massimo con 5 watt, quindi ho pochi watt da già al massimo. Questo invece lo puoi pilotare fino a 10 watt, quando gli dai 10 watt dal massimo della potenza. Il mercato non ti dà proprio niente, il discorso è quello, si interrompe, cioè in pratica senti che lei rimane lì bloccato e basta. Ascolta, mi sai dire il modello esatto di quello ZG di Giuseppe? Lì 150 e basta, senza P, senza altre lettere. No, 150 e basta. Perché io ne ho visto un altro in vendita, però uno l'ha postato, ha messo le foto di com'è dentro, non ha vitti, non ha niente, tipo questo, e non ha alcuna regolazione. Non è che li stanno facendo più aggiornati, e lo stesso risultava a MOSFET. No, quindi quello che c'ha un transistor unico al centro e monta l'MRF con 55 e basta, non devi fare altro. Va bene, va bene. Com'è la radio pulita? A voi, eia, mamma mia, un caldo avevo fuori, non ti dico. Proprio caldo caldo, e le camicie avevo caldo, ho sudato. Stasera. Poco fa, durante le prove, non c'era per niente fresco fuori. È stata bella. Ma vabbè, se vai a Piazza Reseni sta meglio, o più in alto c'è più fresco, ma dove ero io, qua vicino, minchia, non sembrava nemmeno notte. Figurati. Bene, bene, bene, aspetta i watt. 10, sì, 10. Semplice, semplice 10. Comunque ci ho ricaduto nello stesso errore di quant'era un anno fa, 2 anni fa, quando avevo preso lo stesso lineare. Ah, vedi, io invece ti ho fatto attaccare quello di Giuseppe, e ce l'ho qua a casa, e va benissimo, esce anche bene, visto vai? Esce bene a casa, esce bene anche della macchina, che cosa detto? E così quello c'è Giuseppe, uguale, esce bene lo stesso, come l'ha lanciato, perfetto, era gli ha dato solo metà della pera di lei, la bobina l'ha fatta e poi c'è quel primo, uguale, sono precisi, non cambia niente. Eia, comunque, finché uso quegli apparati pseudo-omologati, lo posso pilotare perché hanno 4 watt. E ma questa ne è 10 e la potenza non è regolabile. Come posso pilotare con 10 watt un lineare che massimo ne ammette 5, ne accetta 5? Ma mica 10 watt per paracchia, ma... Sì, questo sì. Questo in origine omologato, però la versione export è 10 watt AM e 20 a strozzo, 20 SSB. Ma cos'è, 548? No, questo sto dicendo, il Superstar 3009. Ah, c'è un prima, ce l'avevo, ma che cosa ti metti? C'è un prima, ti ho detto. Deve abbassare quella. Non preoccupate, ce l'ho anch'io, io l'ho abbassato nel film per poter pilotare i cose lineari Giuseppe. Allora c'è Giuseppe in casa sua, di grazie tutto, c'è un film e passa da 0 a 15 watt. Cioè, non ti devi preoccupare di quello che ti ho detto. Eia, solo che una volta abbassato mi devo tenere i 4 watt. È molto male. Li mettiamo, cosa vuol dire che io? Luca Poti che vuole essere tuo amico su Facebook, rispondi. Questa è che mia nipote mi ha cambiato il coso, cos'è tuo figlio? Ho sentito quell'uccello cantare, ho detto papà. Come non ho... mi arrivano le amicizie e cose del genere, cioè in pratica il sito su Facebook e tutta le sito delle amicizie, mi arriva il messaggio sul telefonino, capito? L'ha fatto Alessia, quindi mi manda il messaggio, cioè il numero del telefono addirittura, quindi non c'è quello sbagliare. Eia, bene, bene. Che ora è? Ancora è presto. Sono le... Ah vabbè, no, non tanto presto, 10:30 passate. Ciao gamba, va bene. Adesso mi arrivano a una mia amicizia, vuol dire che metto un coso, però filo, c'è tuo filo del coso, la passo non mi ha cambiato. Adesso sono troppo così sto a me, con questi messaggi. Intanto mi arriva uno adesso. Poi sono tutti rompipalle la maggior parte, è gente che non conosci, che non sa chi è, cosa fa, se è affidabile. Ma Luca già la conosco, ci manca da quello che conosco più che altro. Vabbè. Non fugge nessuno. Di qua non fugge nessuno. Torno subito, D'accordo. Stavo controllando i watt sul 40 in SSB e non ho cambiato la banda. Che fece? Che fece? Thank you.

dimenticato, Antonello. No, non so. Sono su YouTube, capito? C'è tanta S Music, Easy Best, Best. Lo stavo ascoltando. Capito? Sono le casse del computer, quelle basse. Essere gratis, eh? Per pennetta, quella è la Isla Bonita di Madonna. Eh sì, quando ero ragazzo me li facevo i cantatrici di Madonna, eh. I primi ce li ho, abbiamo anche il numero 1 e poi a seguire 2, 3, 4, 5, 6 ce li ho tutti in 33 giri, me li compravo sempre. Il primo album non l'avevo mai trovato all'epoca, poi ho mollato, sono usciti CD e non li ho più preso. Comunque i tantatrici dell'epoca ce li ho, vedi, delle belle foto, quando era giovane anche una bella signorina. È una bella ciccone. Antonio, cosa stai vincendo? La connessione gratis? Vado ad andare in soffitta e prendere gli altri, perché li ho messi lì dentro una scatola tanti anni fa, ne avrò una, penso una 4-500 sulle soffitte, un 33 giri. Poi dei 45 non se ne parte. Lo so, Antonio, ma stavo dicendo che io sono connesso gratis, io non pago niente. Sono connesso alla Pecalo Felice, quindi con la pennetta, quella wireless, capito? Quindi non pago un accidente io. Posso scaricare quello che voglio, anche il pippo lo posso scaricare, figurati tu. Questo è YouTube, guarda. Si sente bene. Abusivo. E sente bene, voi non dovete dire niente. No, fatto fa in paese tra un po' l'entrata del paese sono i giardini. Sarà anche lì la rete wifi, dunque chi va a prendersi il sole può tranquillamente portarsi un portatile o un tablet e collegarti a internet gratuitamente e fai quello che ti piace, quello che ti pare ti piace, seduto in panchina nei giardini al prossimo mese. Dunque è già una cosa abbastanza positiva. Tanto la scusa dice, come dice il comune, lo pagano, giustamente, la connessione internet e dunque la divulgano per il paese, in quel punto lì prestabilito. Già va bene lo stesso. Ma voglia, io va bene, ma io pago niente, ahorita. Ma ovunque voglio, grazie a Dio, sto bene per quello. Signore, ce l'ho a tre, arrivi tu adesso. Sfortunatamente qua dove abito io ce ne sono tre molto molto deboli e poi c'è anche il codice, dunque niente, forse. Ma c'è anche al monte, c'è quanto so io, così è Marco. Veglia, però non è una connessione aperta, praticamente il comune ti dà una password personale, metti quella dentro. Non è libera, cioè aperta a tutti, devi entrare con la tua password, quindi se combini i casini poi cercano te. Capito, no, io grazie a Dio no, sono tranquillo qua, entro gratis e dovunque voglio, figurati, mi sono tranquillo, c'è un segnale forte e quindi sono a posto, c'è la pennetta con la piccolina mia. Si vede la GBC. E quella bianca, se non ricordo male, quella bianca, mettiamo la tua dritta, fai così, provo a vedere se riesci a beccare qualche segnale. Ti ricordi? Esatto, ma c'è anche una specie di diritti, come parla Adriano, sembra con un malato di odio cuore, la dritta, che fa un chilometro e mezzo, se vuoi, ma non l'ho mai usata. Hai provato per dire a fare una specie di una piccola parabola in modo da centrare bene il segnale, per sfruttare diciamo al massimo come ricezione? No, la verità no, non l'ho fatto, ma già avendo il cinese la parabola, c'era insieme al coso, 20 euro, c'è la parabolica piccolina, c'è rettangolare, e non c'è problema. Si è fatta apposta per ricevere segnali internet? Ah, infatti, io lo so. Che si vendevano queste cose, la verità. C'erano i cinesi, la seconda. segnale ci sono paraboli di vari tipi, c'è quella quadrata da pannello piccolina che guadagna roba di 8, 9, 10 dB, oppure quella tubo che è proprio per centrare il segnale perfettamente. E vabbè, poi c'è quella parabola, ma quella è terribile, quella va bene in grandi distanze, quella che ha 24 dB e quella è larga un metro anche. Pensa che uno con quelle parabole si è collegato a un punto wifi a 70 km di distanza. Io ho una cosa di olio cuore qua, fatto da Adriano, e mentre fa un chilometro e mezzo, mentre fa, lo faccio vedere quando vieni qua. Mi, se uno si prende quel modem wifi, l'alfa, c'ha un watt di potenza, e poi lo unisci al programmino che dico io, può entrare in tutte le reti wifi, anche protette. Va bene così, beh, io ho un sacco qua di quelle protette, pieno qua. Ehi, quel modem è bello, ma non c'ho bisogno, io c'ho la wifi direttamente. Se no era bello sperimentare anche con quel modem là. Si chiama Alfa, il modello non me lo ricordo. C'ha un watt di potenza, mentre tutti gli altri wifi hanno 100 milliwatt, no? Naturalmente va unito a un'antenna ad alto guadagno in modo da trasmettere bene, ma ricevere anche bene in una direzione, se no è inutile. Aspetta un secondo, controllo qual è quello che ho preso io, un secondo. Da fatto un giorno il canale è completamente vuoto, è silenziosissimo. C'ho il disco e c'ho io, USB, wifi adattatore, alta potenza, 7 litri di guadagno è questo, cinese, 20 euro. C'è l'antenino che è lungo un dipolo in pratica, capito? Quanto è lungo? 25 centimetri oppure dai 20 ai 30? È fatto una piscina di un euro, è la verità. Allora è lungo. Sì, quello guadagna anche 11 dB potrebbe guadagnare se è ben fatto. Oh, io dei cinesi francamente non mi fido molto della roba che hanno loro, non mi fido per niente, più che altro per i driver, per comandare quelle periferiche più che altro. Comunque sia, non l'ho ancora usato, devo usarlo quel portatile per poterlo far funzionare, solo che devo eliminare la wireless che c'ha, è già adattato la prima il portatile, quindi è un casino, qui si fa l'abbattimento tutti e due. Ho detto che ne ho 35 centimetri, ce le vuoi te le prendo Marco, Riuscita. E cacchio, 35 centimetri sono da battere Rocco Siffredi. Siamo per vivere Giuseppe, un tubo di intendo io. Cos'è Antonè? Ah, preme bene il microfono, insomma ti sento, vento. Capito? E adesso mi senti Antonè? Adesso sì. Imbarrato. Imbarrenditi. E allora, Marcolino Condor, il pipistrello della notte, come va? Benino, benino. Un po' calda la giornata, ma ascolta, sono stato in quel negozio, in Viale Dante. Per curiosità ho dato un'occhiata al baracchino. Ma era una marca che non avevo mai visto. Anzi, credevo fosse un baracchino più recente, di una marca più conosciuta. Cappa, è visto, in quello me l'ha messo a posto Antonello, chiede a lui le informazioni e saprai tutto quanto. Però peccato che è verniciato tutto strano, Giuseppe, è stato verniciato apposta quello, no? Sì, come era prima, sì. Volevo rifare tutto quanto così nuovo perché era tutto graffiato, Marconi quello lì. E quello l'ho fatto fare di quel colore là, capito? Grigio, hai capito? Giuseppe, ma sembra fatto a pennello. Non lo so, quello non lo so, non so, la mamma me l'ha fatto poi, in verticale tuo ricco chi l'ha fatto, capito? Capa Giuseppe, ok, no, l'ho guardato perché poteva essere interessante, credo fosse un Intec, un Alan, un Elbex, uno Zodiac, roba del genere, ma quello non l'ho mai visto, francamente. Non mi ricordo nemmeno più la marca adesso. Antonelli, io tu a cosa ci può assomigliare quel baracchino? No, non me lo ricordo, comunque c'è un nome strano, la verità, però diciamo che quando attaccano gli AM sono ed è buono il baracchino, non è che esca male, è perfetto. Ora, sempre fissato con la modulazione solo, già sta uscendo. Comunque il negozio non è come mi aspettavo, era un po' più banale. Poche cose, certe sono d'epoca, tra virgolette, sono diciamo un po' vecchiotte, ma antiquariato no. Cosa pretendi, Marconi? Sì o no? Ci ha aperto 3 settimane, massimo 4 settimane, capito? Non lo conosce nessuno, se non fa pubblicità, lì la gente quando vede la vetrina, vede quel negozio, entra per curiosare, capito? Non ha fatto né volantine né niente, non lo puoi, giustamente non lo puoi assomigliare come quello di Portobello, capito, Marconi? Lo so. Sì, ok, chi è che vuole entrare? C'era qualcuno che stava fischiando sotto. Oh, io non ho sentito nessuno, tu hai sentito qualcuno? C'era solo di te, c'era qua che stava chiamando avanti col bip, chi è? Quel maniaco. No, è sparito. Ma sei andato di là, dal tuo principale? No, dove devo andare? Sono andato a Patavato, sono stato al GPC per quel pezzo, per quel baracchino e non c'era e quindi poi mi ha telefonato Gaviuccio e gliel'ho detto eccetera eccetera. Sono stato in giro io, la verità. Adesso la mattina già sono a casa, meno male, tutta la mattina. Capa, io domani mattina, se ti piace, fa vedere, io alle 10:30, 11 sono da Nicco, se vuoi farti una scappata, non sono problemi, poi tanto devo prendere il bambino a mezzogiorno e mezza, hai capito, devo andare a prendere a mezzogiorno e mezza. Io ti scendo con la ventola ogni mattina, ti scendo con la ventola e quella faccio. Lì direttamente la tua fratella, non preoccupate, ho trovato la ventola e quella faccio Maria trovato. E il capa, vabbè, non ce n'è problema, non ce n'è problema. Oh, yeah. E allora Marconi, che cosa ci racconti di bello? Bello è una parola grossa. Siamo usciti con Gianni stasera, doppio room, abbiamo dato un'occhiata appunto in Viale Dante e poi siamo andati in Via Porcellana, dove c'è un altro negozio di usato, piccolo come il mio corridoio, c'ha quattro cavolate, no, finto antiquariato, ma microscopico, guarda. Ovviamente non c'entrava nessuno, chi ci va lì? Ma dove? In Via Porcellana, dove? Che altezza? Beh, poco lontano da via Le Mancini. Non sei uscito. Non sono uscito. Adesso si ascolta. Ieri sera con un Marco abbiamo provato a ideare quello che c'avevo io a casa tua, e a casa mia, quello tuo. E in macchina solo va bene. E quello che c'è tu in macchina, quello che c'è te l'hai dato lui, c'è lo stesso filato, se non mi ricordo male, Giuseppe, giusto? Non ho capito, Antone. Il lineare che c'ho in macchina, che è quello che mi ha regalato Marco, e beh? Se non mi ricordo male c'è lo stesso finale, o mi sbaglio, del DBC50. Sì, è uguale. Ti ricordi che se l'avevamo controllato era uguale, che c'era solo quella specie di molla che c'era lì, che era un po' messa male, non ho capito cosa cavolo c'era, e tu me l'avevi messa a posto. O quello che... Cos'era quella molla? Quella l'avevi cambiata dopo quella lineare che c'era a casa tua. No, quella che c'è in macchina non l'ho toccata, l'ho toccata il BC50 che c'avevo qua io, non quella lì. E quindi già mi ricordavo bene, siccome Marco ha posto di andarsi quello, sta diventando l'altro modello, quello con quattro finali, MOSFET, come la gancia in macchina si incolla, infatti gli ho detto di riportare di spedire di nuovo indietro, farsi mandare un altro come quello che c'è tu, come quello che era da te, che va benissimo, perché invece il 50 tuo l'ho dato in macchina sua ieri, che me l'ha portato, funziona una bomba benissimo, scatta la rete tranquillo, addirittura aumenta anche la radio, aumenta anche il segnale, capito? Quindi non è difetto di cose, ripeto di dialetto che c'ha lui in macchina, l'ultimo che l'ha e ha comprato. Tutto lì. Ah, cappa, ma gli è già arrivato quello nuovo lineare a Marco? Sì, mi è già arrivato, me lo stavo usando ieri, e quello si incantava da me, figurati. Infatti gli ho detto, guarda che tu hai trovato lo stesso identico lineare, preciso, però dico, diciamo, finale solo come il BC150. Aspetta che scende il BC150 di Giuseppe, che lo faccio a casa, io te lo metto in macchina tua, facciamo la prova. Abbiamo fatto la prova ieri, perfetto. E molto roba tranquillo, non c'era nessun problema, mi ha fatto dire a Marco. Avanti Marco. Confermo Giuseppe, quello del TG andava bene, praticamente con 4 watt. In ingresso ne dava 70 watt e la modulazione aumentava. Invece questo qua è un po' strano, non capisco perché debba fare quella cosa lì, quel difetto. Invece non so, abbiamo mandato così mi Marco quel lineare che te l'hanno fatto passare per buono, invece non le dica 70 watt quello nuovo che ti ha rifatto. Poi basta controllare con il test e vedi un po' quanto o meno. Sto provandolo con un baracchino a portate multa e vedi quanto ci toglie fuori, capito? No Giuseppe, il problema non è quello dei watt. I watt se pilotato con 10 watt li dà. Il problema è che si incolla il relè, cioè rimane in trasmissione il lineare e quindi non riesce a ricevere nulla. Io non riesco a capire. Eppure qualcuno l'ha risolto quel coso lì. Ma Antonello non c'è riuscito a capire cosa era, che quale difetto ci aveva. Giuseppe, quello non ha niente di regolazione, non ha una vite, non ha un trim, non ha nulla. È così e basta. Allora tu devi fare una cosa Marco, se accetti un consiglio da un amico, prendi quello lineare, cerchi l'indirizzo e tutto quanto e glielo rimandi indietro e dice, signori belli, io ve l'ho pagato questo lineare, pretendo che questo lineare funziona. Se no mi ritornate i soldi indietro o me ne date un altro, se no facciamo un'altra cosa. Io ci torno con il lineare che c'ho in macchina e lo provi e poi vedi la differenza da quello là a quello nuovo tuo, capito Marco? A me interessa vedere le differenze sia come trasmissione che dentro. Comunque ricordiamo che anche quello che ho dato a Giuseppe, quello azzurro, faceva lo stesso identico difetto, non staccava. Quindi come mai a lui va e a me non andava? Questa secondo me è questione sempre di base magnetica. Anche se li dai da massa con quel filo che abbiamo usato noi, c'è sempre qualcosa che non funge. Ma il discorso, come me, Antonello me l'ha piazzato con il lineare e l'abbiamo provato assieme con il Garas, allora l'ha baciato di 10 watt e 4 watt, poi gli abbiamo attaccato con il lineare e sparava, perché siamo saliti al centro al centro di su, di fronte a Osino, e sparava che è una bomba. E Marco, io non lo so se quel baracchino là, il tuo, ce la faceva a poter, non lo so, a poter spingere quella roba là, capito Marco? A voglia Giuseppe, stasera ho fatto altre prove, con 10 watt, mi pare di a 90 watt, 100 sono fittizi, non li dà. Allora la ZG lo puoi pilotare massimo fino a 5 watt, non devi andare oltre, questo invece lo puoi pilotare massimo a 10 watt. Se tu ne dai 4 ne togli fuori 40, se ne dai 10 in teoria ne toglie 90, da 100 non ci arriva mai. Cazzo, non lo so, dillo Antonello, se si può fare qualcosa, o al limite ci mettiamo d'accordo e vediamo un po', ci troviamo una sera, o domenica mattina ci troviamo, tutti e tre, sotto casa di Antonello, e lo ritacchiamo con le lineare che c'ho in macchina, e lo proviamo in macchina tua, per come va. Viceversa Giuseppe, vorrei fare una prova. Questo lo metti in macchina tua, perché tu hai la massa, proprio la massa con la carrozzeria, e magari la te funziona, vedrai. Tu la massa, il fatto che tu la massa lì, del coso, ricordate questo, che è sempre la carrozzeria che te la deve dare la massa, mai il coso, capito? Il discorso è quello lì, perché c'è anche questo, che l'impianto, quello che mi ha fatto Antonello, abbiamo fatto il collegamento direttamente, abbiamo fatto passare i fili direttamente lì sotto e collegati alla batteria, capito? Mai alla scindisigale o quello che è, capito? Anche qua Giuseppe, i cavi del lineare sono diretti alla batteria. Quello sì, perché la scindisigale, come fai, se gli metti due cose e non ce la fa. 10 ampere della scindisigale basta una malapena per il lineare. Vabbè, dai, riprendi Antone. Tu adesso bisogna fare la prova direttamente con tutti e tre i lineari e se trova subito il problema, lo sto dicendo io, per me funziona bene quello che c'è Giuseppe in macchina adesso, quello viene tutto, tanto funziona benissimo, quindi non fai altro che spedire quel lineare che hai comprato, so che ti fa mandare l'altro. Quando so 10 euro di differenza, gli dai e se la tocca in cura, ma almeno c'hai un bel lineare funzionante, non va bene un lineare difettoso, scusami, poi già sì, facciamo le prove. Dice un 50 ce l'ho qua e 30 G, l'altro è quello che hai detto tu, ti scegli il migliore e te lo ordini, non c'è problema per quello, già ci penso poi io per aver fatto l'allineamento con l'archino. Ma Antone, il discorso è questo, adesso poi domenica mattina ci troviamo noi tutti e tre sotto casa tua, facciamo questa prova, poi vediamo qual è il migliore e io lo mettiamo in macchina di Marco, andare bene, e non ho capito. Lo sto dicendo, ho provato il tuo, quello che ho a casa io, l'ho provato in macchina sua, e funzionava benissimo, la bomba, di tu, ovviamente anche la radio, è rimasto allibito Roberto Quadrato. Di sotto lui si lamenta per come sente l'emulazione, beh non sei mai lamentato, anzi, l'ha vantato gira a gira. Rivati tu, c'è un 50 tuo, quello che ho qua a casa io. E lui ha detto, quindi già lo accetta il lineare 40 della magnetica, non preoccupate. Il problema è quel lineare che ha comprato lui, a MOSFET non va bene, non c'è niente da fare, si incanta non è perché no, c'è qualche problema senz'altro. Ma è uguale quello che ho in macchina io, è uguale Antonè. No, è diverso, tu c'hai un filare solo, lui ne ha quattro, cioè, è come il quel filare della CT è grigio, ti ricordi, quello che vendono, che non serve un tubo, c'ha quattro finali, il 747 è uguale, c'ha quattro finali e basta, no, non va bene lì, in quella macchina. Allora facciamo una cosa, domenica ci troviamo tutti e tre lì e ritroviamo il lineare che ho io e lo mettiamo in macchina di Marco e quello di Marco lo mettiamo in macchina a me e ti dimostro che spara con un demonio e allora è questione di o di massa o di qualcosa che non ha fatto bene lì, hai capito? E domenica facciamo le prove per vedere chi pompa di più, piglio dove adesso domani il rosso metto l'altro, metto la cosa da gavino, me lo porto a casa e facciamo il controllo dei batteri tutti i tre lineari, a vedere chi spara di più, con lo stesso baracchino. Vabbè, tanto Marco, poi domenica. Vabbè, sto scherzando, al limite domenica ci paga la caprina e siamo felici e contenti. Eia, sì, a me interessa solo sapere se il maestro da Giuseppe stacca, viceversa proverò quello blu che ho dato a lui, tu lì la prova, e poi posso contattare il venditore. Sì, ma per me, io dico questo, Marco, domenica facciamo questa prova, se è lineare, glielo ritorno indietro, se quello che ho in macchina io, a parte funziona bene, allora il difetto è lineare, se non funziona bene, allora tu mi dai quello là, quello nuovo, e io ti do lui quello che c'è in macchina, e ti dico se quello di poi, la veniamo noi con l'Antonello, io e Antonello. Ti fanno le conclusioni, da? Vabbè, figlio per me, da? Ah, non è vero, non ti devi abbattere, Marco, non ti devi abbattere, e la prova si fanno sempre queste cose, e il discorso è che tu l'hai ordinato questo lineare, senza che la gente, capito, che te lo provasse, capito, il discorso è sempre quello lì, e la cosa bisogna sempre, prima di acquistarla, bisogna sempre provarla, hai capito? Però sai, quando è su internet viene male. Comunque tutti quelli, diciamo, vari utenti che hanno avuto lo stesso medesimo hanno lamentato lo stesso difetto. A proposito, Antonio, ho letto cosa ha fatto il tipo. Ha messo un microfono all'alimento. Antonio è morto. No, deve essere andato a bere un bicchiere d'acqua, hai capito, Marco? No, sono andato alla porta. Buonanotte a chi si è già addormentata. Oh, capito, Antonè. Quello, anzi, ti dirò, ha messo 100.000 picofarad con la bobina, che l'ha messo il prete di questo. Poi, non puoi neanche toccare, ma te ne fai male, anche perché quando devo fare modifiche non c'è più garanzia, capito? Nel caso si brucia il finale, costa 50 euro, cosa fai? Ci ho avuto la mondezza. Ah, come 50? quartiere Orlando. Io ho letto che i certi finali MOSFET costano pochi centesimi, tipo 80 centesimi. Sì, sì, ma vabbè, il 477 che monta il 747, vedere che monta il presente, vedere quanto vengono. Lascia perdere la fruttidine. Quando una cosa è nuova, che è difettosa, la spedisci, se la prima fai cambiare. Difetti che c'è, come? Io dico, lo cambierò più se li fa. Vediamoci comunque. Te lo faceva anche, ti ricordi, Simo, con 4 watt di pilotaggio, questo, non quell'altro, eh? Vabbè, questo che c'ho io comunque da 70 di watt, tutti tondi, a watt, metà. E aumenta anche la radio, quindi lavora benissimo. Quando lavora così, e lo sa che va, è perfetto. Antonello, dì una cosa, ma una volta che noi dobbiamo venire, bisogna scollegare tutto quanto i collegamenti che abbiamo attaccato alla macchina, no? No, non c'è bisogno di quello, già me lo aggiungo, fregatene. Voglio proprio allineare, riesci a marco di macchina tua, se fa lo stesso ripeto, se fa lo stesso ripeto glielo faccio spedire, ma non frega niente. Se lo fa cambiare, non potresti un'unione rifettoso, ma ce la fai. Mi sembra l'alimentatore della box, mi sembra, no? E quando li usi due settimane poi pigli li butti la mondezza, non esisteva. E se è difettoso, lo spedisci, se lo fa cambiare, aggiunge qualcosa in più e si prende l'altro. Cos'è? Qual è il problema? Non cambia mica la vita, no? Se non è il problema, se quando non li spediscono l'altro, se è difettoso quello là, può usare quello che c'è in macchina mia, capito? Problemi non me ne metto io, glielo avevo sempre detto io a Marco, problemi non ce n'è, usa quello lì in attesa che gli mandano l'altro, hai capito? Poi quando arriva il nuovo, lui si prende l'uovo e lui mi ritorna l'altro, hai capito? Ma se devo usare il baracchino, quello senza lineare, io problemi non me ne metto, lo posso usare anche senza lineare, problemi no, non ce n'è, tanto macchina poco lo tengo, e il discorso è quello, ma non interessava più qui a casa, hai capito? Sì, vabbè, non è quello, li posso mettere anche io, al limite devo quello che c'ho qua, invece un 50 le aggancio i due spinotti maschio e lo uso tranquillamente in macchina, finché non gli arriva l'altro. Però non è che a me mi serve il vicino 50, capito? Usa quello, c'è bene, è più tranquillo. Gli metto gli spinottini e ci do uno spinotto rosso, non nero, maschio, e la voglia, tanto è avanza. Ma ce l'ho io pure gli spinottini, mi ne distacco dal mio e problema non ce n'è, capito? Quello non ce n'è il problema. E il discorso è domenica facciamo la prova e togliamo e vediamo se quella cosa lì. Se è quello lì, lunedì lui prende, glielo ripacchetta e glielo spedisce nuovamente. E il discorso è quello lì, e glielo dice che lineare non funziona. E il discorso è quello lì. Antonio. Passo. Per me è di rifettoso, come ti ho detto io. Io sono sicuro che se tu da Marco agganci il lineare che hai creato Giuseppe, funziona benissimo in macchina tua. Sono sicuro al 100%, quindi ti conviene ti fai un pacchettino, a quello là glielo spedisci. Provvisoriamente tu dici quello che ho io qua, che è provato, funziona benissimo, dato a me non mi serve. La verità, quindi. Non mi costa niente, c'ho gli spinottini maschio, uno lo so e te lo aggancio, lo usi quando vuoi e gli dà quello. Per te arriva l'altro modello nuovo, magari te immagini che te lo ha fatto a nuovo, già modificato, funziona bene, non costa niente, no? Ehi, Antonè, ma noi aspetta, siamo sempre, battiamo su quel chiodo. Io ti ho già spiegato che loro hanno questo modello che ha i MOSFET. Se lui ha esclusivamente questo modello con i 4 MOSFET, come fa a mandarmi quel modello con un MOSFET se non ce l'ha più? Non ce l'ha più, dice che non funziona, fa quel dischetto che fa questo difetto, che non funziona quel lineare, di sistemartelo. Non dica che puoi fare le modifiche, tu non lo puoi toccare, hai capito? Tu non lo puoi toccare. Una volta che ti arriva, se entro un mese tu li metti le mani dentro, prendi la garanzia, pigli il lineare e ce lo butti alla mondetta, perché devi spendere 50 euro così? Io la porto indietro, dice, io ho provato in macchina, mi rimane incantato e non funziona, non esce, dici, cioè la scia la potenza sale, però rimane incantato e distribuiamo il baracchino. Siccome nel forum c'è scritto che quasi tutti quel tipo di lineari sono stati venduti con questo difetto, cercate di fare qualche modifica e poter funzionare, basta scrivere alla casa madre, ce l'hanno già loro, entro una settimana vedrai che te lo mandano perfetto, funzionante. Però è pur vero che loro non te lo modificano, cioè il venditore te lo sostituisce con un altro uguale, sempre che ce l'abbiano ancora. Uguale vuol dire con quattro cose, quindi mi arriverà un lineare uguale che avrà lo stesso difetto e quindi siamo sempre lì. Oh, se tu riscrivi il foglio e loro mandano via i miei alla casa madre, che quelli lineari che fanno quel tipo di difetto, stai tranquillo che la casa madre te lo sostituisce, glielo mando a nuovo. Hai capito? È la stessa cosa che ti ho detto l'altro giorno, che a me io ho comprato un DVD per la macchina che non ho mai usato, quando l'ho usato difettava. Qui a Sassi non l'hanno potuto riparare perché non ci sono riusciti, allora l'hanno mandato direttamente alla fabbrica, spedito direttamente in fabbrica, e lì ti hanno cambiato, mi hanno dato un nuovo funzionante, modificato il tutto, capito? Quindi se mangiano loro, di quello va, non ti devi preoccupare, tu dici, difetto che fa? Dici che si incanta nelle, e purtroppo è così, nel forum c'è scritto che sono state, per poter utilizzare quel tipo di lineare sono state fatte le modifiche, siccome tu lineare ti hai comprato nuovo, sai che devo modificarlo, dice, io a spese mie, ma il lineare l'ho comprato nuovo io, tocca a voi modificarlo, sì, basta guardare nel forum, te lo modificano, no, te lo mando direttamente già modificato, basta, non deve toccare nulla. Piccolo, se no te con l'altro, quello che è, lo stesso del prezzo, non lo so, ma cosa faranno? Però perché devi tenere una cosa difettosa in tua casa, hai capito? È come un televisore, se difetta l'alimentatore cosa fai? E ti tenete il televisore così? No, dici guarda che a me, quando raggiunge un tipo di calore, mi dura una settimana, la scala va in corsa. Quindi siccome nel forum c'è scritto che il componente che è difettoso è questo, me lo cambiate, fate una modifica per scalare di meno e dopo gli ho funzionato il televisore, non è che mi tengo il televisore ogni settimana devo comprare uno nuovo, uguale. Una cosa mi sono dimenticato di provare, Antonio, su carico fittizio. Il competizio non so cosa dire, perché io ce l'ho 5 watt, non di più, quindi ci vorrebbero fare i competizio di quelli grossi, per sapere quanti watt esce fuori. No, io ce l'ho, della Diamond, praticamente regge teoricamente 100 watt per 20 secondi, 10-20 secondi, comunque intanto la prova. Il problema è che tu lo spedisci indietro, quelli controllano ovviamente sul carico fittizio, perché non è che vanno in macchina a provare, e dicono il lineare a posto, e te lo rimandano. Vabbè, da vediamo, adesso non voglio stare, cioè tutta la sera che ne stiamo parlando, non voglio mettere, come dire, il carro davanti ai buoi. Vediamo cosa mi dicono, vediamo prima di tutto le prove, domenica. Senti che c'ho ragione io, sarà che non mi sbaglio. Avanti Giuseppe. Ti crepa Giuseppe? dottor Giuseppe Loppati, Giuseppe non ci studi in radio. Ho letto. Se, vediamo domenica, se il discorso è questo, che se il lineare non funziona, l'unica cosa è prendere, fare un bel pacchettino, mandarlo alla casa madre, o dove l'ha preso lui, e fargli spedire un altro. Se noi rimandarli sull'indietro, ho capito. Se no, come si denuncia e si becca una bella denuncia con il signore lì e non manderà più niente. Addirittura partire in quarto la denuncia, eccetera, no? Non funziona così. Vabbè, aspetta, mi sfugge una cosa che volevo dire. Ci siamo dimenticati Antonello Rossi. È vero, cazzo, ci siamo dimenticati Antonello Rossi. Antonello, perdonaci, cazzo. Visto? Colpa di Pompone o sempre. Che era abbigliato di essere già in da subito, compatto. Oh Giuseppe, a meno che a te non vada bene così, il mio lo provi sulla tua macchina e funziona. Se questo funziona sulla tua macchina e a te va bene tenerlo, tu mi dai quello blu che potrebbe funzionare da me, praticamente lo scambiamo. Se il mio funziona a te e se il tuo blu, quello blu, funziona a me, facciamo il cambio. Problemi, ti ho detto Marco, che problemi, non ce n'è problemi. Marco, io te l'ho già detto, se ti serve il lineare, però non ce n'è problema. Poi domenica facciamo questa prova, se mi vuole anche quella, il nuovo che ti è arrivato, facciamo questa prova, lo tengo io, se funziona bene lo tengo io. E tu ti usi quello che c'ho in macchina io. E poi vedi tu, decidi tu Marco, io problemi non me ne metto, capito? No, al limite io posso anche utilizzare quello che c'è Antonello lì a casa, non è quello il problema, però è giusto fare la prova, hai capito? Fare la prova e vedere perché questa cosa non va e deve andare per forza. Io vado. Vabbè, dai. Già lo vediamo dopo domani, faccio le prove. Che ore sono? Aspetta che ho preso la cognizione del tempo. Le 11:30. Vabbè, perché cosa c'hai? Problemi per domani, devi lavorare, Marqui? No, però ancora non ho mangiato. Ah, non hai mangiato? E allora ti lascio andare a mangiare, a metterti qualcosa nello stomaco. Vabbè, dai. Ci sentiamo domenica verso le 10 e qualcosa, 10:30 sotto casa di Antonello, dai. Gliene buttiamo anche l'antenna. Ti faccio riconoscere. Vabbè, Marco ancora non ha cenato, dunque c'è lo stomaco che sta processando, vero Marco lì? No, magari lo stomaco no, ma mi sono distratto, capito? E questo baracchino che mi sta rovinando a me. Ciao Marco, ciao Giuseppe, ciao Antonello, Radio Birillo, ciao Marco. Ciao Birillo, ben sentito. Avanti Giuseppe. Ciao Berillo, peraltro che ti risente dopo una marea di tempo, era ora di farti sentire, cambio. Vi stavo ascoltando, vi stavo, quest'ora di lavoro lo faremo a testa, capo. Coordinate avvicinamento quella di Portoferro, capo. Capa, cazzo, ma arrivi una bomboletta e... Ma arrivi una bamboletta, complimenti, e io come ti arrivano lì alla zona di Portoferro, dammi un piccolo controllo, cambio, 1, 2, 3. Sì, che bello, ciao, Birillo, salutone, sono Santiago Terri, voglio. Muore Birillo, cambio. No, ma ha detto che ha le mani impegnate, sta guidando, deve essere magari in qualche curva. No, siamo in campagna, siamo ancora, facendo controlli. Buon pomeriggio, senti Luca qua, Romeo. Che è entrato? Buonasera. Giovanni, Alicia qua, mi senti? Positivo Caparrotti. Giovanni di qua, ma è Giovanni di là. Dobbiamo arrivare a Reggiseno. A Reggiseno ti arriva Luca. Adesso lui mi arriva a 4, se io metto tipo l'FM500 si arriva a 7. In poche parole, questo Smith sui segnali più forti segna giusto, sui segnali più deboli segna molto basso. Forse c'è un battato riverso, cosa vuol dire io? Lo saggio cosa dirti. E l'ho anche taratto, perché prima praticamente anziché 9 segnava 7, segnava molto basso, allora l'ho aperto, ho regolato il trimmer dello smitter, però i segnali bassi li rende ancora più bassi, solo di segnale però, il segnale in realtà è perfetto, udibile, forte come audio. Luca, mi è arrivato stasera il messaggio al telefonino che mi ha chiesto l'amicizia, forse avrebbe fatto casino lì sia nel sito. Ho cambiato il password, dove cazzo adesso cosa cazzo ha combinato? Quanto sai che mi è arrivata l'amicizia tua? E ho fatto un account nuovo, capito? Perché c'è gente che rompe il coglione, là, ho preferito rimettere quelli che avevo prima, però sono di meno, molti di meno. Erano 400 e sono diventati 180. Ah, infatti mi è arrivato un messaggio al telefonino, perché a me mi ha fatto Alessia stasera. Cioè stasera, c'erano già da un mesetto, quando mi chiedono l'amicizia nuova, mi arriva direttamente al telefonino con il numero del telefono, capito? E quindi posso mandare un messaggio per dire di ok, tutto a posto. Adesso domani già ti mando la risposta, là, che viene Alessia qua a casa e così ti do la risposta e siamo a posto. Ti metto in lista. Un po' a tutti, poi io accetta, tanto li ho rifiutati, ce li ho messi da parte, cazzo, ogni volta un gioco rompono le balle, un altro gioco rompono le balle, a poco mi rompono le balle, però sono un po' tranquillo, no? Beh, quello sì, c'è ragione, non è che c'è tocco, avrei pigliato la Giuseppe a girare, Capa. Ciao Luca, buonasera. Avanti Virillo, se sei ancora in frequenza, cambio. Capa, ma stai lavorando, Piri? Stai facendo qualcosa con il trattore? Ah, Capa, eia, Capa. Avanti Marco. Ok, signori, vi saluto. Ciao Luca, mi hai sentito? Io vado a cena, va, che se no si fa troppo tardi, va. Riprendete voi, ci sentiamo domani. Avanti a Tonello e buonanotte. Via, ciao Marco, ci sentiamo, buonanotte, buon tutte le tue sere. Ciao Marco, buonanotte, anche io chiudo, ciao Bambone, ciao Bombonio, ciao Giuseppe, domani, ciao ciao. E qua è già tardi e mi rompono le palle. Ciao ciao. Ciao Luca, ciao Marco, alle prossime, ciao. Ehi, ciao, ci sentiamo là. Ok, a domani mattina allora. Giuseppe, ci vediamo domani mattina, ti riporto con la ventola e il resto. così si è a posto, ok? Vabbè, non c'è problema, Antonio, non c'è problema, lo sai che non c'è problema. Comunque, per me, la mia opinione è... hanno fatto in lineare difettoglio, per me non me lo toglie a 99% e c'è in lineare difettoglio. Poi lo vediamo domenica come è la questione, e domenica si scopre tutto quanto gli altarini, si vedrà la verità. Va bene, d'accordo, ci vediamo nei mattinali, direttamente lì a tuo fratello, va. Ok, ti dirò che quella con il dissipato del peggio Maria, così gli vicini. Ciao Bobo De Bilillo, ciao Giuseppe, ciao Luca, ciao a tutti, va. Guardate quelli che anch'io vi già tardi, già fine mezzanotte. Buonanotte, ciao ciao. Ciao Antonio, buonanotte, saluto a me a Simona e tutto quanto il cuore ha, va. Avanti Birillo! Ciò che non si può più. E vabbè che tra mezz'ora è finito e rientra a casa, no? Ma è cavallo, ma sono arrivato stamattina alle 6:30. Ecco, ma come fai? Ma non stacchi per il pranzo, Birillo? Va bene, no, pensavo che attaccavi all'ora di pranzo e riprendevi subito, capito? Una mezz'oretta di pausa e poi riprendevi. Stato a fare tutta una tirata sino a Recio, va, è pesante. Vabbè, il discorso è questo, non c'è lavoro e bisogna prendere quello che capita. Bisogna fare un po' di sacrifici, però alla fine c'hai qualche soldino in più in tasca, capito? Cappa, ecco, ma non è per caso che avete preso anche le cose delle in appalto, quelle cose delle spiagge, no? O vedi? Un mio amico l'ha presa lì a Raghero. Ah, Raghero l'ha preso lui? Allora, senz'altro avranno pulita anche quella dell'avvocato là, lì a Lido, l'avrà fatto lui. Tutto quanto lasciamo la presa, la spiaggia. Tutto quanto, lì da dove parte dal porto sino alle bombarde, no? Quella zona lì. Cavallo. Tu li senti? No, non sento disturbi, non li sento, anzi se aumentano anche di più di segnale. Non è, non funziona a me, non funziona a Coso, a Marco. Allora lui mi ha regalato un 747, no, me l'ha regalato. E ce l'ha preso un altro, e ha detto, ma per spendere i soldi, me lo chiedevi, te lo ritornavo, no, non c'era un problema, quello è un regalo, qua non voglio fare brutti figuri, ho detto, guarda quella brutti figura, ho detto Marco, ho detto, problemi, ho detto con me, non c'è, non è vero, va bene, ho detto, se me l'avevi chiesto, te l'avrei anche ritornato, non c'erano stati problemi, però lui per non essere, cioè come, no, per non farci vedere, a fargli ritornare la cosa, ha comprato questo lineare, però no, lì sta andando male. Adesso domenica lo proviamo e vediamo, togliamo l'inghippo, no, a vedere se funziona. L'ho aperta la mia macchina mia e vediamo se spara, se no c'è qualche difetto rimpianto suo. buona continuazione di trabacco, dai, e ce la risentiamo tutte le prossimine, se coincide, sono domani, dai. Ma non ci sono problemi.